Adesso diamo la parola a professor Pesci, che è stato il primo a chiedere. Altri si possono iscrivere? Sì. Ich beneide die italienischen Kollegen wegen ihrer Sprechgeschwindigkeit. Wenn wir Deutschen selbst in Deutschland so schnell sprechen dürften, könnten wir denn die doppelte Quantität Text vortragen. Entschuldigung. Nach dieser Einleitung, lieber Kollege Ruggeri, wenn ich Ihr Highspeed-Italienisch ein bisschen korrekt verstanden habe, möchte ich eine Frage stellen. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir das Tridentinum nicht vom Zweiten Vatikanum her lesen dürfen und dass eine direkte Bezugnahme auf das Tridentinum mit großem Gewicht eigentlich nur bei Schrift und Tradition vorliegt, das andere in den Erneuerungsperspektiven des Zweiten Vatikanums einbezogen wird. Trotzdem meine Frage jetzt. Gibt es nicht eine indirekte Rezeption des Trienter Konzils in den Erstentwürfen? Denn dort werden ja laufend die jüngeren Papstenzykliken zitiert, Humani Generis vor allem, Mystici Corporis und so weiter. Und die sind ja wohl über jeden Verdacht erhaben, dass sie das Tridentinum nicht in Frage stellen. Schlussfolgerung: In den Erstentwürfen steckt die ganze neuscholastische Trientrezeption drin. Diese Erstentwürfe sind bekanntlich fast alle in der Kritik des Konzils untergegangen und die definitiven Entwürfe klingen ganz anders. Darf man also, ich sage erstmal so, würden Sie meiner These zustimmen, dass das Konzil, das Zweite Vatikanum, eine indirekte Neutralisierung des Tridentinums vollzogen hat? In anderen Worten, das Zweite Vatikanum lässt sich vom Trient nicht hindern, wo es meint, unbedingt neue Wege gehen zu müssen. Vor allem dort, wo die neuen Wege nichts anderes sind als der Weg zurück zu altkirchlichen Perspektiven und Strukturen. Gestatten Sie eine kurze zweite Frage, die gilt nicht nur Ihnen. Ich sage sie in einem italienischen Satz. Alla conclusione di questo convegno, dove è la prospettiva del terzo millennio? D'abord, une question assez précise à Paul Freud. Il s'agit des conciles provinciaux qui ont suivi le concile de Trente. Ces conciles ne pouvaient pas être publiés sans avoir été corrigés et approuvés par la Sacrée Congrégation du Concile. Est-ce que vous avez, dans vos études, étudié ces corrections? Et ce que devenait, après le passage devant la Sacrée Congrégation du Concile, les conciles provinciaux? J'en connais un exemple pour la France où on peut comparer ce qui était parti de l'archevêché d'Embrun et ce qui revient et qui a été imprimé. Je n'ai plus en tête toutes les retouches, mais toutes ne sont pas purement formelles. On particulier, il s'agit de gommer tout ce qui peut rappeler, si peu que ce soit, le gallicanisme. Toujours dans l'activité de cette sacrée congrégation du Concile, j'ai été frappé, en d'autres lieux, dans l'archevêché d'Avignon, par le fait que lorsque les évêques ou les archevêques, forts du pouvoir que leur avait donné le Concile, ont voulu introduire certaines réformes ou imposer certaines exigences aux ordres religieux, exemple, l'affaire remonte à la Sacrée Congrégation du Concile, et dans les cas que je connais, c'est l'évêque qui est dégoûté et les ordres religieux qui ont raison. Exemple précis, un archevêque veut faire payer la taxe pour les séminaires par des monastères, ces monastères refusent et Rome leur donne raison. Quant au rapport du professeur Ruggieri, il suggérerait beaucoup de choses, en particulier, je pense, toute une mise en situation des trois ou quatre siècles qui séparent les deux conciles, car lorsque Vatican II réfléchit ou réutilise ou relie le concile de Trente, il le fait en tenant compte inévitablement de tout ce qui a été créé véritablement, innové dans la période post-tridentine, en particulier durant le premier siècle qui a suivi le concile et qui a été très fécond pour le catholicisme, et également dans la perspective, je dirais, restauratrice du XIXe siècle, qui lui, à mon sentiment, n'invente plus rien ou presque rien, mais se contente, après les troubles révolutionnaires, d'essayer de restaurer le catholicisme post-tridentin. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas ce poids d'histoire qui pèse plus que la lecture des textes sur l'attitude, la position de Vatican II par rapport au Concile de Trente. Bene, il professor Serafini, intanto se ci sono altri si iscrivono così si guadagna tempo. Ecco, mi è piaciuta nella presentazione, nella redazione Ruggeri, questa immagine un po' alchimistica del superamento della diversità del Concilio di Trento con l'immagine del piede sinistro, Concilio del Vaticano II ha il piede sinistro nel Concilio di Trento, ma lo supera col destro. Io vedevo in questo superamento non soltanto un superamento quantitativo, perché va avanti, porta avanti la dottrina, ma un superamento qualitativo, in quanto non è più un concilio definitorio, come è stato il Tridentino o anche il Vaticano prima, ma è un concilio che, come esprimeva la mentalità di Papa Giovanni, di aggiornamento, quindi una qualità diversa. E l'aggiornamento è proprio quella per riscoprire il mistero della Chiesa, perché possa parlare e parlare in modo da essere strumento di salvezza per l'umanità di oggi, ripresentando il suo mistero, scoperto non solo dalla sua dottrina del passato, rivisitando e scrostando le incrostazioni dei secoli, ma l'altro aspetto che è messo in risalto proprio da quel passo della Gaudium Spes che hai citato, numero 44, sì, di una Chiesa che è anche in ascolto del mondo, in ascolto della cultura. E allora questo, l'interpretazione, il salto di qualità è un concilio che non sarà mai chiuso, perché se la Chiesa è in ascolto delle nuove culture, è un concilio che deve essere interpretato in un altro modo, in un altro, perché è un concilio che è aperto. E lo pone sempre in questa tensione di ascolto per poter comunicare la stessa verità. Bishop Miller. No, capiscono benissimo il tedesco e per me è più facile di parlare nella mia lingua. Professor Prodi, ich war überrascht, dass das Gesetz, was eben durch das Tridentinum geschaffen worden ist, so wenig eingegangen ist in das überlieferte Kirchenrecht. Auf der anderen Seite frage ich mich, es ist ja eine Sache, das geschriebene Recht, und das Corpus Juris Canonici war ja nun wahrlich alt, schon damals, und es ist eine andere Sache, das Leben in den Gemeinden. Das Leben in den Gemeinden ist doch sehr stark durch das Recht, das das Tridentinum geschaffen hat, verändert worden. Man denke an die stärkere Beachtung der Eucharistie, an die Wiedergewinnung der Anbetung der Eucharistie. Das hat Hubert Jedlin ja aufgezeigt, wie viel sich hier auf dem gemeindlichen Sektor durch das Tridentinum verändert hat, oder genauer gesagt, weniger durch das Tridentinum als durch die Reform, die aus dem Tridentinum heraus entwickelt worden ist. Meine Frage an Sie, Herr Ruggeri, Sie deuteten an, dass es auch interessant wäre, das erste mit dem zweiten Vatikanischen Konzil zu vergleichen. Auch hier, bei dem, was Sie gesagt haben, war mir nicht deutlich, dass Johannes der 23. so stark auf die älteren Konzile und ja auch auf das Tridentinum verwiesen hat. Aber gerade wenn man an die Liturgiereform denkt, durch das Zweite Vatikanische Konzil, Sie haben Kardinal Acaro ja auch zitiert, dann ist hier doch etwas Neues bewusst geschaffen worden. Damals, im 16. Jahrhundert, das Missale Romanum und jetzt der Übergang in die Volkssprachen, ein enormer Schritt, der ja dazu geführt hat, dass manche gesagt haben, das ist eine Art Protestantisierung der römisch-katholischen Kirche. Wenn man jetzt die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Vatikanischen Konzil untersuchen würde, denke ich, dass auch hier ja nicht einfach angeknüpft und wiederholt wird, sondern dass neue Akzente gesetzt werden, etwa im Verständnis des Bischofsamtes, im Verständnis des Populus Dei, im Verständnis auch des Presbyteramtes. Ich würde also meinen, Ihre Versuche, gewisse Linien vom Tridentinum zum Zweiten Vatikan zu ziehen, würden noch weniger eindrücklich sein, wenn man die Linien zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikan ziehen würde. Ich denke schon, dass doch hier der Aggiornamento, von dem Johannes der 23. gesprochen hat, wirklich auch sehr viele neue Dinge geschaffen hat, die eben nicht an das Tridentinum anknüpfen. Allora, se ci sono altri, se non ci sono altri per il momento, do la parola al professor Prodi, poi al professor Ruggeri. Grazie. Al professor Degnano, sui concili provinciali dopo il Tridentino credo che molto lavoro sia da compiere, però per fortuna è uscito un libro tre anni fa, di Cajazza, tra Stato e Papato, concili provinciali post-tridentini 1564-1568, che dà una panoramica abbastanza interessante sul problema. Ecco, naturalmente la storia della congregazione del concilio è ancora tutta da fare, direi proprio che salvo alcune genericità nessuno ha messo le mani dentro, se non per singoli casi, per singoli diocesi, e quindi il lavoro di ricerca è ancora da fare, insomma, ecco. Io ho studiato soltanto il caso milanese, un po', ecco, in particolare noto perché San Carlo, appunto, il quarto primo concilio provinciale fu bloccato proprio dall'approvazione di Roma per molti anni. Appunto ho scritto tanti anni fa su questo. Certamente San Carlo aveva si è messo lui stesso nei pasticci, cioè perché voleva l'approvazione di Roma per avere più forza, cioè, ecco. e quindi c'è tutto il discorso del delegato servis apostolici e il valore che questa formula ha avuto nel cattolicesimo post-fiorentino, ma certamente era un equivoco, insomma, ecco, cioè da una parte San Carlo si rivolgeva a Roma per avere più forza dei propri decreti, dall'altro questo ha servito per far sviluppare l'autorità della congregazione del Concilio. La quale dal 1588, cioè dalla sistemazione data da Sisto V nella Bolla Immensa Dei, a sistemazione delle congregazioni romane, appunto, ha stabilito fra le prerogative della congregazione del Concilio ufficialmente con l'approvazione del Concilio provinciale. Tutto questo si sviluppa poi nei decenni seguenti, ed è una storia di cui io vedo solo qualche punta che emerge, ma che appunto serve a studiare, perché a metà del Seicento più o meno è invalsa universalmente invece addirittura il costume di chiedere prima alla sede apostolica il permesso di fare il concilio. Cioè le censure non sono tanto quelle sui decreti già fatti, quanto invece preliminarmente nella riduzione dei concili provinciali sotto la egemonia della Curia Romana. Ecco. De Luca stesso, che ho citato prima, che in un altro suo libro dice: «Presertim in Italia nimium rara est, la razza del concilio provinciale. Adolut in ac parte presens decretum pene a paula recessisse videato». Cioè, questo decreto fiorentino non esiste più, insomma. E anche i sinodi diocesani hanno lo stesso destino. Dice, mentre il Consiglio di Trento ha stabilito la frequenza annuale dei consigli diocesani, adesso questa frequenza annuale non sarebbe solo superflua, ma anche dannosa, praticamente. Gli stessi problemi possono essere risolti più facilmente dai vescovi scrivendo a Roma e avendo le risposte a Roma, senza dover consultare il clero, che sono tutte cose complicate che danno discussione. Insomma, quindi c'è una chiara prevalenza nella dottrina dei curiali romani, insomma, ecco, di questo tipo. E quindi è vero, insomma, cioè, però bisogna studiare questo con molta più attenzione di quanto non sia stato fatto sino ad ora. Rimane il fatto che noi abbiamo i concili provinciali, appunto, ancora frequenti nel mezzo secolo che segue Trento, poi abbiamo proprio il vuoto assoluto fino all'emergere nel 1725 del Concilio Romano, che rappresenta il primo tentativo di reazione, ma quando davvero l'ossificazione, per usare la parola di Kottner che ho citato prima, era ormai un punto molto alto. E non mi meraviglia che appunto la pubblicazione dia ragione ai vescovi, ai regolari contro i vescovi, normalmente perché appunto i regolari rappresentano la struttura verticale, insomma, ecco, rispetto alla struttura episcopale, per semplificare, insomma. Al vescovo Miller vorrei rispondere solo che appunto quello che io notavo è questa dissociazione che viene ad essere nella disciplina cristiana tra una norma scritta che diventa sempre più una norma degli ecclesiastici e che non interessa il popolo cristiano, e invece il formarsi di una morale che diventa casistica, che diventa appunto poi che in qualche modo penetra tutti i problemi della vita sociale, in cui ovviamente la comunità cristiana è coinvolta, insomma. Con tutte quelle controversie che conosciamo, l'assisti, la sinistra, eccetera. Quello che mi pare di poter dire è che molto spesso si sono studiati più i contrasti che non il fenomeno che sta alla base dei contrasti, cioè l'affermazione di una di un mondo, diciamo così, etico, che in qualche modo si contrappone non solo al diritto statale, al diritto positivo statale, ma anche al diritto positivo ecclesiastico. Come non c'è una frattura in questo senso, che mi pare ancora viva oggi. Mi permetto di finire non rispondendo al professor Pesce, ma ripescando la sua ultima provocazione: dove è la prospettiva del terzo millennio, perché questo tocca tutti i relatori, insomma, al mio modo di pensare, ecco, quello che sta avvenendo adesso è il sistema delle chiese territoriali. Delle chiese territoriali nate dalla riforma o nate dalla controriforma. Semplifico mettendo tutto assieme, ma secondo me è un certo rapporto tra il potere politico, lo Stato moderno, diciamo, se vogliamo usare questa espressione, e il potere religioso, un rapporto tra la sfera del diritto e quello dell'etica, che è scoppiato e che adesso appunto è il nostro compito ricostruire per il futuro mediterraneo. Vorrei solo ricordare che proprio in questa sede, non molti mesi fa, abbiamo avuto un convegno di Tribunale che secondo me ha segnato su questo punto uno dei richiami più alti dell'andare al terzo millennio. Cioè, appunto, ma qui entreremo nei problemi di tipo ecclesiologico in cui non sono in grado di esprimere un pensiero compiuto, ecco, ma tra la dottrina della coscienza individuale luterana, lo sviluppo della coscienza, diciamo così, collettiva della comunità che emerge in questo dualismo etica e diritto nel mondo cattolico di questi secoli, ecco, io penso che ormai i tempi siano maturi per un tipo nuovo di antropologia e di ecclesiologia, insomma, che comprende la dottrina, diciamo così, della Chiesa come istituzione, la dottrina dei mandati, e quindi coinvolta in qualche modo, in un modo nuovo, proprio in un momento in cui credo che lo Stato moderno e il potere, come abbiamo conosciuto in questi secoli, il potere che è sempre dietro l'ordinamento umano, insomma, giuridico, sta venendo meno. E quindi ci sono nuovi poteri, e credo che tutti noi, per questo credo che l'ecumenismo è una realtà, non so come dire, insomma, che ci deve prendere dall'interno, insomma, ecco, perché è una risposta a tempi nuovi che non hanno più nulla a che fare con questo mondo che ci stiamo lasciando alle spalle. Questo parlo da storico, non da teologo, e chiedo scusa ai teologi, per esempio. Poi, insomma, non so questa distinzione se valga sempre. No, no. E mi permetto di rispondere in tedesco al collega Pesce, di rispondere in italiano al professor Benard e al vescovo Mill. Herr Pesce, meine Antwort auf Ihre erste Frage ist die Rede von Kardinal Frings, gerade während der letzten Sitzung des Konzils. Eine Rede, die vielleicht, man kann das voraussetzen, von Ratzinger vorbereitet worden ist. Damals hatte Frings sehr stark das erste Schema der Pontibus Revelationis kritisiert, einfach die Fußnoten analysieren. Nämlich, er hat gesagt, wie mehr als 100 von diesen Fußnoten, von diesen 100 stammten, so ungefähr 50 vom vorigen Jahrhundert, und dann ganz wenige vom Mittelalter und nur eine von einem griechischen Vater. Was heißt das? Es ist wahr, was Sie gesagt haben, dass gerade im Übergang von der vorbereitenden Periode eine andere Haltung der Tradition gegenüber, nicht den Identitäten, sondern vor allem der Tradition gegenüber hatte man. Ne? Das ist ganz wahr. Aber das Problem war nicht sagen wir, so das Resultat des Zweiten Vatikans in Beziehung auf das Tridentium, sondern in Beziehung auf die kirchliche Tradition des letzten und dieses Jahrhunderts. Und so kann man eigentlich nicht die Frage, meiner Meinung nach, wie Sie gestellt haben, stellen. Ja, selbstverständlich hatte, und das ist schon eine indirekte Antwort auf Professor Benard, nämlich selbstverständlich hatte das Zweite Vatikanum die Vergangenheit anders interpretiert, aber vor allem im Unterschied zur nachtridentinischen und vor allem restaurative Theologie. Ci voglio dire che è vero che c'è un'altra interpretazione, ma questa del Vaticano II passa soprattutto attraverso il confronto con la teologia e col magistero restaurativo, cioè quello che soprattutto va dall'Ottocento al nostro secolo. Questo mi sembra importante. Indirettamente, certo, è chiaro che poi andiamo anche al Tridentino, ma in primo luogo è lì il confronto, non è in primo luogo col Tridentino. Ich hoffe, eine Antwort Ihnen gegeben zu haben. Die zweite Antwort war nicht an mich, an sich gerichtet, sondern an die Sitzung. Also. Aber Professor Benard, un concilio nuovo, cosa ha prodotto effettivamente di nuovo? Ma qui il problema si dovrebbe rifare, allora uno, il Vaticano II, ma non era questo il mio tema, si dovrebbe fare un congresso per stabilire esattamente qual è l'interpretazione del Vaticano II. Abbia misericordia di me, non era questo il mio tema, e io non l'ho trattato. È chiaro che allora, anche qui forse però, dalla storia della interpretazione post-tridentina potremmo imparare qualcosa. Al fondo c'è stato un confronto con il tridentino che non è stato, anche per responsabilità, dell'autorità romana, ci è stato ricordato oggi da Prodi, ci è stato ricordato il primo giorno da Alberigo. Ecco, non è stato un confronto con il Concilio di Trento, ma con una somma di decreti e con una somma di prescrizioni che hanno assunto presto nella Chiesa una certa autonomia. Allora, il confrontarsi con la novità o meno, del Vaticano II, significa in primo luogo non confrontarsi con questo o con l'altro testo, ma evidentemente con la sua ispirazione di fondo e vedere se c'è una novità o meno. Se ad esempio nell'atteggiamento di Papa Roncalli c'è qualcosa, no? Perlomeno a livello di, non tanto nelle soluzioni concrete, penso, ma a livello di atteggiamento profondo, spirituale nei confronti del proprio tempo, se lì non c'è qualcosa di veramente nuovo che ci possa aiutare. Questo è la questione, cioè la risposta che dà. Vescovo Müller, è vero, io non ho fatto un paragone tra il primo e il secondo Vaticano, ma già nella risposta che ho dato al collega Pesce dovrebbe esserci indicato qualcosa. Certamente invece nei confronti del Vaticano I, il Vaticano II rappresenta in qualche modo una cesura. Che poi Paolo VI l'abbia vissuto così o abbia voluto che fosse così, questa è un'altra questione, ma nella sostanza rappresenta una cesura. E certamente quei documenti ricordati dal collega Pesce, dall'Humanae Generis, eccetera, sono smentiti a lettera, potremmo dire, questo sì, poi dal Vaticano II. No. Possiamo dimenticare che l'assunto dell'Humanae Generis è la condanna di tutte quelle posizioni, comprese quelle dei Lubacchi, che volevano dire che la tradizione scolastica era limitata e che non si poteva, ci si poteva esprimere secondo ormai le ultime formule per forza, come bisognava andare all'ampiezza della tradizione cristiana. Qui non c'è qualcosa di secondario, qui c'è il nervo forte del Vaticano II, certamente. E quello è stato un concilio che soprattutto ha giocato se stesso nella ripresa dell'autorità e nella giustificazione dell'autorità della Chiesa nei confronti della società. Lei mi ha in qualche modo rimproverato per la citazione che ho fatto di Lercaro e del rimando a Lercaro al Tridentino, ma come dice il Tridentino ha dato origine a questo? Intanto precisiamo quell'intervento aveva durante il concilio una precisa intenzione strategica o tattica, come si vuol dire, cioè voleva dimostrare alla tendenza furialista che la dottrina dell'episcopato, della collegialità, non era una novità gallicana, che anzi era stato un patrimonio comune a tutta la teologia cattolica, non evidentemente agli ultimi 80 anni, e che questo patrimonio comune della teologia cattolica era presente non soltanto nella canonistica anteriore, ma anche durante il Tridentino. Tant'è vero che il discorso ebbe un effetto preciso, cambiò anche l'opinione di alcuni durante il Concilio Vaticano II e, come dire, raggiunse il suo scopo. Non è quello una ripresa del Tridentino come tale. Non ho voluto assolutamente dire questo, anzi, nella mia relazione ho tutto sommato sostenuto una marginalità della riflessione sul Tridentino, tranne Papa Giovanni. Lui c'è, stando alle fonti che noi abbiamo, una precisa preoccupazione che è di grandissimo rispetto e di grandissima accettazione interiore per un verso, ma per altro verso che adesso Dearia re agitur, adesso si tratta d'altro, non si tratta di ciò che c'era nel Tridentino, e quindi non si potevano ripetere le misure del Tridentino e nemmeno lo stile del Tridentino. Questo è chiarissimo in Papa Giovanni. Ma questa stessa riflessione che poi i padri del Vaticano II fanno propria mediante la discussione sulla pastoralità, una discussione molto confusa, intendiamoci bene. Non è che uno di quelli che c'era più appassionato, il vescovo Verdi, durante la prima sessione, capisce che, ho dovuto anche nel periodo preparatorio, lui aveva giocato su questo motivo in minoranza allora per criticare gli schemi preparatori. Si preoccupa di interrogare Congaro, di farsi preparare uno scritto da Congaro sul significato che può avere la pastoralità. Nemmeno lui si rende, per esempio, perfettamente conto dell'importanza su questo punto, a livello di soluzione della grande madre. Ecco, però, mediante questa discussione sulla pastoralità, i padri del Concilio fecero proprio, più o meno coerentemente, questa è un'altra questione, poi da verificare, quella che era l'ermeneutica del Tridentino di Papa Giovanni. Questo sì. Ma l'intervento di Serafini non era una domanda rivolta a te, era un ulteriore approfondimento, una considerazione a cui non devo nessuna risposta. Allora, se non c'è nessun altro, venga il professor Gianfranco e l'altro incaricato di poter tirare le conclusioni.